le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Tasi, 48 ore alla scadenza per i comuni che non hanno ancora deliberato, alta la media delle aliquote, molta confusione tra i cittadini. Arrestati i presunti assassini dell'ex cassiere di Gennaro Mokbel, ucciso in casa sulla Camilluccia a Roma, tra loro un ex terrorista nero. La qualità dell'istruzione migliora, ma l'Italia è stata l'unica a tagliare nel settore, dice l'OCSE, sempre più alto il numero di ragazzi che non lavorano né studiano. Cottarelli prepara l'addio, ma lascia sul tavolo il lavoro sui tagli di spesa. Domani al via gli incontri tra Renzi e i ministri per definirli in vista della legge di stabilità. Dopo la prova generale con l'Olanda, stasera tocca alla Norvegia per la nazionale di Antonio Conte, prima partita ufficiale di qualificazione per l'Europeo. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Come sempre i nostri contatti sono effettogiorno@radio24.it per scriverci un'email, c'è il numero di sms per scriverci durante la trasmissione, 349-238-6666, e poi naturalmente c'è la nostra pagina Facebook. Come avete sentito in cima ai nostri titoli c'era la Tasi, è però un tema sul quale torneremo più avanti, perché come avete sentito molti comuni non hanno ancora deliberato, stanno andando all'ultima scadenza, c'è molta confusione tra i cittadini e di tutto questo vogliamo chieder conto a un rappresentante dell'ANCI, l'Associazione dei Comuni Italiani. Tutto questo alle 13:15. In apertura però teniamo la cronaca con gli arresti per l'omicidio di Silvio Fanella, l'ex cassiere di Gennaro Mokbel. Tra i presunti assassini c'è anche un ex terrorista, a quanto pare. Monica Ceravolo sta seguendo la conferenza stampa degli inquirenti in questi minuti. Monica, buongiorno. Buongiorno a voi, la conferenza stampa è appena terminata e da qui emerge che c'è l'ambiente eversivo di destra dietro l'omicidio di Fanella, un unico filo che parte dalla banda della Magliana e lega gli ex NAR, i nuclei armati di destra, alla criminalità economica romana. Questo infatti emerge dopo l'arresto dei due presunti autori di questo omicidio che sono stati catturati oggi, uno è Egidio Giuliani, un ex terrorista nero, l'altro Giuseppe La Rosa, vicino ai versori di destra. I due si sono conosciuti in carcere a Novara e ultimamente lavoravano insieme in una cooperativa per ex detenuti. Con loro, lo ricordiamo, il 3 luglio scorso c'era anche Giovan Battista e Cenisi, ferito e arrestato lo stesso giorno dell'agguato. Si erano travestiti da finanzieri per costringere Fanella a svelare il nascondiglio del tesoro di Mokbel. Fanella li fece entrare in casa, però nacque una colluttazione, vennero esplosi i colpi di pistola e Fanella rimase ucciso. Qualche giorno dopo fu la polizia a scoprire in una casa di campagna parte di quel tesoro tanto cercato, orologi, gioielli ma soprattutto diamanti, frutto della truffa Telecom Spark, truffa per la quale Mokbel è stato condannato a 15 anni di reclusione. Infine oggi gli arresti, ma sembrerebbe solo l'inizio. Gli investigatori infatti non escludono affatto l'esistenza di una cupola, di alcuni mandanti dietro questo omicidio di via della Camilluccia, mandanti che però al momento sono ignoti. Ed è tutto. Grazie Monica Ceravolo per questi aggiornamenti. Ancora con la cronaca, c'è stata una lettera ai familiari nella quale spiegava di non poter andare avanti in quelle condizioni, con lo sfratto imminente e con la quale si scusava. Così un pensionato di 70 anni di Barzanò, centro della Brianza in provincia di Lecco, si è tolto la vita, era separato e padre di un figlio, si è tolto la vita impiccandosi. E poi ancora con la cronaca, c'è un sospetto caso di Ebola nelle Marche, lo ha confermato poco fa l'assessore alla salute della regione Almerino Mezzolani, spiegando che la regione sta acquisendo tutte le informazioni e che attiverà le procedure del caso. Siamo in contatto con l'assessore alla salute, lo raggiungeremo nel corso della trasmissione. Intanto veniamo all'agenda di governo, che comprende molte cose. Naturalmente ci sono i tagli di spesa, Carlo Cottarelli, il commissario alla Spending Review, ha lasciato sul tavolo dell'esecutivo molti dossier, ma c'è anche la riforma della giustizia. Proprio pochi istanti fa è arrivata una prima valutazione complessiva da parte dell'Associazione Nazionale Magistrati ed è una valutazione molto dura. Raffaella Calandra, ciao, buongiorno. Sì, buongiorno. Doveva essere rivoluzionaria, si è rivelata inefficace e punitiva. La riforma della giustizia del governo Renzi ricompatta, possiamo dire, l'ANM e fa tornare i toni dello scontro più duro. Le toghe non nascondono la delusione davanti a alle anticipazioni del piano della ministra Orlando, pieno di interventi di scarso respiro, scrivono, e ispirato a logiche che credevamo appartenere al passato. L'attacco, ancor più che sulle annunciate scelte nel settore civile, si concentra sulle mancate modifiche di alcuni snodi cruciali del penale, come la prescrizione, e diventa ancor più acuto l'affondo quando si tocca l'argomento delle ferie dei magistrati. Le contestazioni dell'Associazione Nazionale dei Magistrati si concentrano su quella legge ex Cirielli del 2005, prodotto di una delle varie leggi ad persona, ma ricordano che non viene scardinata ma affiancata da due ipotesi di sospensione temporanea, mentre è rinviata la legge delega e ai suoi tempi incerti, lamenta l'ANM, l'intervento sulle impugnazioni. Ricordiamo come la prescrizione è uno dei fattori considerati più patogeni e più importanti per la modifica della riforma della giustizia. Ma i toni del sindacato delle toghe si fanno poi ancora più aspri quando, come dicevamo, si tocca il tasto dolente dell'annunciata riduzione delle ferie dei magistrati, che sono regolamentate per legge. Decisa senza alcun confronto e se confermata, va all'attacco l'Associazione dei Magistrati, sarebbe un grave insulto per il metodo usato, ossia un decreto, perché una riforma così fatta così velocemente, mentre dicono le toghe, ci sono ben altre riforme più urgenti da portare in campo. Insomma, i toni diventano veramente quelli dello scontro. Simona. Grazie a Raffaella Calandra. Come dicevamo, nell'agenda del governo c'è anche il taglio della spesa. A quanto pare iniziano domani gli incontri con i ministri per definire dove andare a tagliare. Vincenzo Miglietta è così, ciao, buongiorno. Sì, buongiorno, è così il lavoro di Cottarelli, Simone, dunque ufficialmente sul tavolo di Palazzo Chigi, la palla passa ora al governo, è compito infatti della politica decidere dove intervenire tra gli ambiti di spesa individuati dal commissario alla spending review. Quanto al futuro di Cottarelli, non ci dovrebbero essere strappi a breve, ma una sua uscita programmata con un ritorno al Fondo Monetario Internazionale. Sui tagli alla spesa domani si entrerà nel vivo con gli incontri che ci saranno tra il Presidente del Consiglio e i vari ministri. L'obiettivo messo nero su bianco ieri in un vertice tra Renzi, il ministro dell'economia Padoan, e Cottarelli è quello di arrivare a quel 3% di risparmi per ciascun dicastero annunciato dallo stesso Premier. Dopo anni di tagli lineari ci si affiderà allora ad una politica collegiale che non metta ciascun ministro davanti ad un opt-out. Punto di arrivo finale 20 miliardi di euro di risparmi che dovrebbero permettere al governo di coprire altre voci di intervento a partire dalla stabilizzazione degli 80 euro in busta paga. Negli interventi di razionalizzazione della spesa sarà coinvolta anche la Presidenza del Consiglio, quindi difesa, sanità, interno, con la sinergia tra le forze di polizia. 2 miliardi si attendono dalle spese standard dei comuni. E da Roma è tutto. E grazie al nostro Vincenzo Miglietta. Sul tavolo dell'esecutivo c'è anche, come sapete, il piano scuola. Oggi la ministra Giannini, intervistata dal Sole 24 Ore, annuncia cambiamenti sulla maturità già da quest'anno e l'avvicinamento della scuola al mondo del lavoro. Prospettive di riforma che si confrontano con i dati diffusi dall'OCSE questa mattina, che fotografano nuovamente una situazione di disagio per il mondo dell'educazione italiano. Ha seguito la presentazione del rapporto la nostra Alessandra Schepisi. Alessandra. Sì, buongiorno. Migliora la qualità dell'istruzione in Italia, ma il livello rimane uno dei più bassi dell'OCSE. Tra i punti critici, scarsa motivazione da parte degli studenti, dialogo balbettante tra scuola e mondo del lavoro, tassi di dispersione scolastica ancora alti, pochi investimenti, in aumenti laureati, soprattutto donne, ma la percentuale rimane inferiore agli altri paesi. Ancora troppi insegnanti, nonostante il blocco del turnover, che ha creato invece un innalzamento generale della loro età media. Education at Glance è una delle più autorevoli di fonti di informazione sullo stato dell'educazione, un rapporto di 500 pagine presentato appunto questa mattina alla LUIS dall'associazione 3L. Allora sentiamo il commento del presidente di 3L, Attilio Oliva. Il nostro paese ha un capitale umano, cioè un complesso di competenze e titoli di studi generali molto più basso degli altri paesi. Abbiamo un ritardo storico gravissimo. Negli anni 50 avevamo il 50% di analfabeti in Italia, non si può dimenticare. I decisori pubblici hanno fatto degli investimenti poderosi nel sistema scolastico che hanno dato dei risultati. Il livello del paese è cresciuto, ma anche gli altri paesi migliorano, non stanno fermi. Quindi lo scarto tra noi e gli altri paesi in termini di titoli di studi e competenze c'è sempre ed è ancora sensibile. Ma ci sono anche alcune note positive nel rapporto. In generale, dal 2003 al 2012 è aumentata la preparazione dei ragazzi, soprattutto quindicenni, nella matematica. Piccoli progressi nei livelli di apprendimento, nonostante, dice l'OCSE, la spesa per studenti in Italia sia calata in questo periodo del 4%, e l'Italia è stata l'unico paese a tagliarla. E da Roma è tutto. Grazie Alessandra Schepisi. Il volo MH17 della Malaysia Airlines, caduto il 17 luglio scorso sull'est dell'Ucraina, la carlinga di questo aereo è stata perforata da numerosi oggetti ad alta velocità. L'aereo è andato in pezzi mentre era ancora in volo. È una delle conclusioni del rapporto preliminare olandese sullo schianto che è avvenuto nell'area dei combattimenti, come ricorderete, tra esercito ucraino e ribelli filorussi. Come ricorderete, nell'incidente sono morte 289 persone a bordo. Il rapporto agli esperti olandesi evidenzia dunque che non ci sono stati problemi a bordo, ma la caduta dell'aereo è avvenuta per danni esterni, probabilmente appunto fuori di proiettile o di missili. I gas serra, dice l'ONU, continuano ad aumentare nel pianeta. Anidride carbonica, metano e ossido di azoto presenti in quantità sempre maggiore nell'atmosfera. Così il pianeta continua ad accumulare radiazioni solari a causa dell'effetto serra. Sono questi i dati che emergono dall'ultimo rapporto dell'ONU sul clima. Il segretario generale delle Nazioni Unite corre ai ripari con il Climate Summit, vertice tra i capi di Stato e di leader della società civile e del mondo dell'imprenditoria, fissato a New York per il 23 settembre. L'intento è quello di tracciare un nuovo corso per ridurre le emissioni di gas. Il mondo ha bisogno di vedere cosa i paesi stanno già facendo, ha dichiarato Ban Ki-moon. A suo parere i leader devono fare ancora di più e guidare la Terra verso un futuro più sicuro. In occasione del vertice, inoltre, verranno annunciati 8 interventi su radiazione come agricoltura, energia, città e foreste. Adriano Palazzolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Molto atteso, arriva oggi il nuovo iPhone. È già conosciuto come l'evento di Apple più anticipato dalla stampa a causa delle numerose fughe di notizie che hanno incrinato il leggendario riservo dell'azienda. Proprio grazie alle numerose soffiate è quasi certo che saranno due i nuovi iPhone 6 che verranno lanciati questa sera alle 19 ora italiana. Display più ampi da 4,7 e 5,5 pollici, design più smussato e forse chip NFC per i pagamenti di prossimità. In questo caso Apple avrebbe già 800 milioni di utenti iTunes che hanno già fornito il numero della propria carta di credito. Rimane però la grande incognita dell'iWatch, lo smartwatch, cioè l'orologio intelligente che soprattutto i concorrenti sperano venga lanciato, perché solo Apple, dicono in alcune dichiarazioni, può fare decollare un mercato, quello degli oggetti elettronici indossabili, che finora è stato un vero flop. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Molti librai francesi, e passiamo dai supporti elettronici a quelli cartacei, hanno deciso di non vendere il libro di Valérie Trittweiler, la ex compagna del presidente francese François Hollande. Del libro ne abbiamo parlato ampiamente, 200.000 copie stampate in prima istanza e andate esaurite sostanzialmente subito. In mattinata il sindacato francese dei librai ha ricordato che nulla è più lontano dal nostro mestiere della censura, fosse anche di tipo commerciale. E però abbiamo chiamato Alberto Galla, che è presidente dell'ALI, l'Associazione dei Librai Italiani. Buongiorno Galla, benvenuto. Buongiorno, buongiorno. Come la giudica questa scelta di alcuni suoi colleghi d'Oltralpe? Allora, premesso che noi librai indipendenti italiani invidiamo molto i colleghi francesi, che sono oggetto di benevole e meravigliose campagne di sostegno da parte del governo francese, quindi tutta la nostra invidia va a loro. E premesso che la posizione che esprimo ora io è una posizione ovviamente non condivisa a livello, diciamo, istituzionale, quindi è la mia opinione personale, anche se ovviamente nel mio ruolo di presidente, io devo dire che ha ragione il mio collega presidente, cioè lungi dai librai fare attività di censura. E sicuramente il tema è un tema di scelta, come sottolinea Michele Serra oggi nella sua amaca su Repubblica, però io dico che la scelta deve spettare ai lettori, cioè agli acquirenti. Senta Galla, c'è chi dice c'è un po' di puzza sotto il naso, perché alla fine con questi chiari di luna che vive il mondo dei libri, e in specie, come dire, vivono le piccole librerie, negarsi questo è... Ma al di là dell'aspetto meramente commerciale, mi verrebbe maliziosamente da chiedere a questi colleghi francesi così puristi, se si sono analogamente rifiutati di vendere le famose sfumature di grigio, di rosso e di nero, che in Francia, come del resto in tutti i paesi dove sono state pubblicate, hanno riscosso e riscuotono anche nelle ulteriori edizioni economiche paperback che escono grande successo. Ecco, mi viene da dire questo, questo sì, quello no, è proprio il tema della scelta o della censura che a me concettualmente non piace. Poi i librai hanno miliardi di strumenti per poter spingere o meno un libro, o anche addirittura rifiutarsi di venderlo, basta dire che non ce l'hanno, ma il tema è anche l'esposizione in libreria. Se tu non credi e non ti interessa un libro, sappiamo benissimo che lo possiamo collocare in una posizione non visibile. Quindi ci sono tanti strumenti che non le affermazioni di principio, che secondo me di questo tipo, affermazioni di questo tipo, lasciano un po' il tempo che trovano. Grazie Alberto Galla, presidente dell'ALI, l'Associazione Librai Italiani. Le auguro buona giornata. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Tasi, 48 ore la scadenza per i comuni che non hanno ancora deliberato, alta la media delle aliquote, molta confusione tra i cittadini. Tagli di spesa domani al via agli incontri tra Renzi e i ministri per definirli in vista della legge di stabilità. Il volo malese sull'Ucraina battuto dall'esterno, nessun errore dell'equipaggio, scrivono i tecnici nel loro primo rapporto. Arrestati i presunti assassini dell'ex cassiere di Gennaro Mokbel, ucciso in casa sulla Camilluccia a Roma, tra loro un ex terrorista nero. Guido Castelli, sindaco di Ascoli e delegato alla finanza locale del Lanci, bentornato ai nostri microfoni. Grazie, anche se non so se la stessa cosa diranno i radioascoltatori che sentono la mia voce ogni qualvolta si avvicina una scadenza. Sarebbe una scadenza fiscale, come è un gufo anche lei. No, per carità, non confondiamo la causa con gli effetti, noi siamo, come dire, vittime di un sistema rutilante che vede nella casa e nel mattone una specie di sacco di soldi pieno da guantare. Senta Castelli, e però ce la mettete un po' pure voi, perché la scadenza è stata rinviata e ci sono un sacco di comuni che stanno deliberando l'aliquota in queste ore a 48 ore dalla scadenza. Mi scusi, si possono lasciare i cittadini in questa condizione? Però vi sono da dire due cose. La prima è che molti comuni lo hanno già fatto, non rientrano nel novero dei 3.000 solo perché ancora non risulta al Ministero, quindi molti hanno già approvato, però siamo nell'interregno della pubblicazione informatica. Sì, mi scusi Castelli, però anche l'avessero fatto una settimana fa, non potevano farlo prima? Però attenzione, la scadenza è il 16 ottobre, non è il 18 settembre, c'è anche stata un po' di confusione, nel senso che non vogliamo assolutamente indulgere in perdono verso chi magari arriva in zona Cesarini a fare le cose, però al di là del contesto in cui dobbiamo operare, c'è da dire che per l'appunto ancora manca un mese e rotti alla scadenza. Ciò non toglie che purtroppo questo carosello fiscale è una pagina molto brutta, non la prima, del rapporto fra contribuente e sistema paese, questo è indubbio. Peraltro, Castelli, è una discreta mazzata, ci consenta l'espressione, da quel che vediamo dai primi calcoli. Ma guardi, io devo dire però, e questo non sappia di difesa del sistema comunale, che bisogna per una volta dire come stanno le cose. Lo Stato si vanta di non aumentare le tasse perché già sono a livello esponenziale, però cosa fa? Di fatto obbliga i comuni a farlo scambiando capacità fiscale che ci viene trasferita e tagliando soldi e risorse. Allora ciascun sindaco d'Italia, siamo 8.100 circa, deve decidere se mettere mano in qualche modo alla leva fiscale o tagliare asili nido, case di riposo, assistenza disabili, perché dopo 5 anni di spending review vi assicuro che siamo all'osso. Anche i comuni più blasonati, più prestigiosi, più virtuosi sono in una condizione di dover affrontare inermi questa ipocrisia che è iniziata con Monti, il quale con l'IMU portò il gettito della tassazione immobiliare sugli edifici in Italia da 9 miliardi, vecchia ICI, quando fino al 2011 si pagava solo l'ICI, ai 24 miliardi dell'IMU. Il problema è che i comuni in questo passaggio, in questa vera e propria patrimoniale, non hanno ricevuto tutto quel gettito, hanno ricevuto poco più dell'ICI, mentre invece lo Stato si è intascato questo, come dire, bottino importante che rende noi sindaci responsabili e i governanti spesso invece percettori. lavoratori, di una buona parte degli sforzi del contribuente. Mi sembra che stia assolvendo i suoi colleghi su tutta la linea, insomma. No, se sono in ritardo non è colpa loro, se le aliquote sono alte non è colpa loro. No, ora per essere sinceri, il sistema dei comuni è da tempo, è un sistema che doveva contribuire, ed è stato giusto, al risparmio e al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. Il problema è che dal 2009 noi siamo destinatari di spending review, e quindi, anche se ancora forse probabilmente ci sarà grasso che cola, tanto per usare un'espressione cara al Premier che è stato sindaco, è altrettanto vero che forse è venuto il caso di mettere mano anche a qualche taglio che non sia esclusivamente quello dei comuni. Sa perché si colpiscono facilmente i comuni? Perché per l'appunto è facile ottenere immediatamente risparmi di spesa. Se in 3 mesi, nell'arco di 90 giorni, il ragioniere generale dello Stato ha bisogno di portare a Bruxelles dei risparmi freschi e sonanti, sia pur sicuro che colpisce i comuni, perché è la cosa più facile del mondo. Taglio, e così i problemi sono del primo cittadino di battere la pesca. Guido Castelli, grazie, sindaco di Ascoli e delegato alla finanza locale dell'ANCI, anche per aver evocato la figura del sindaco di Vatte la Pesca, non male. Allora, Carlo Genta in studio con noi. Carlo, ciao. Ciao Simone, buongiorno a tutti. Stasera dunque la prima partita vera, per così dire, nel senso che è partita per la qualificazione all'europeo per la nazionale di Conte. Certo, partita che conta 3 punti, non come l'amichevole dell'Olanda della settimana scorsa. L'Italia torna a giocare una partita ufficiale, l'ultima, la ricordiamo, era stata quella che contro l'Uruguay, che ci ha mandati a casa dai mondiali, e probabilmente da qui parte la vera avventura di Antonio Conte, cioè da Oslo, Norvegia, 20-45. La Norvegia è forse l'avversario più serio che troviamo sulla via degli europei, perché di girone di qualificazione europea si tratta. La squadra è sia nel disegno che negli interpreti praticamente la stessa che abbiamo visto al debutto sulla panchina azzurra di Conte. Ci sono 2 variazioni, una tra i pali, cioè Buffon riprende il posto da titolare e Sirigu torna in panchina, l'altra obbligata perché Marchisio è squalificato, quindi al suo posto giocherà Florenzi a centrocampo, confermata la difesa 3 con Astori, Bonucci e Ranocchia. A centrocampo gli esterni De Sciglio e Darmian, che tanto piacciono a Conte, con Giaccherini e De Rossi, e confermata anche la coppia d'attacco, cioè Immobile e Zaza, che contro l'Olanda ha fatto molto bene, Simone. Grazie Carlo, naturalmente di tutto questo e di questa prepartita si tornerà a parlare in tutti i convocati, in onda subito dopo il giro delle 14 d'Europa 24. Adesso un approfondimento sulla vicenda scozzese, già ne abbiamo parlato ieri, come sapete c'è stato questo sondaggio che dava in vantaggio i sì per quanto riguarda la scelta sull'indipendenza della Scozia. Oggi un nuovo sondaggio condotto da TNS indica indipendentisti e unionisti in un testa a testa, il fronte del sì al 38%, il fronte del no al 39%. Saluto Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra. Leonardo, buongiorno e benvenuto. Buongiorno a voi. Allora, oggi pubblichi un'analisi, oltre ai dati che abbiamo visto ieri, cioè il calo della borsa di Londra e la sterlina che scende, abbiamo visto ci sono degli altri effetti economici, insomma, più a lungo termine, che potrebbe portare naturalmente un'eventuale secessione della Scozia. Ci puoi dare un quadro e un'idea di tutto questo? Secessione eventuale della Scozia sarebbe francamente un disastro perché, per il Regno Unito, soprattutto perché la Scozia, essendo un'economia quasi petrolifera, nel senso che la grande forza dell'economia scozzese è il petrolio e il gas del mare del nord, che pure declinano, però sono sempre in grado di garantire un gettito importante, e questo rimarrà per l'85% nelle casse di una futuribile e possibile Scozia indipendente. Quindi da questo punto di vista la Scozia è abbastanza, se vogliamo dire, sicura. Meno sicura è l'aspetto, come dire, della divisione dell'attuale quadro, perché c'è un debito pubblico di cui la Scozia dovrà farsi in parte carico, e c'è il grosso problema, enorme problema dell'unione monetaria, cioè della sterlina. I nazionalisti dicono di continuare a volere e mantenere l'unione monetaria e quindi il pound. Londra dice questo non sarà possibile, ben sapendo che questo è un elemento chiave per muovere il consenso, perché gli scozzesi sono contrari ad abbandonare il pound. Ma al di là di queste considerazioni, il problema vero è che sarebbe, come dire, si avvia la potenziale dissoluzione di un regno, perché se la Scozia se ne va, inevitabilmente si riverberanno effetti del genere sulle altre parti del Regno Unito, a cominciare dall'Irlanda del Nord. Conseguenza ultima, in caso di un referendum sull'Unione Europea, a favore o contro l'Unione Europea, una Gran Bretagna senza più Scozia, cioè, si ritroverebbe automaticamente fuori, perché la maggior parte degli eurofili, diciamo, sono in Scozia. Quindi senza gli scozzesi la bilancia penderebbe dall'altro capo. Un'ultima domanda che ti voglio fare è che effetto potrebbero avere da un punto di vista politico i reali inglesi? Innanzitutto l'annuncio del nuovo figlio della coppia reale e poi forse si è parlato anche di un intervento della regina. Sì, questo appare improbabile, perché fino ad ora la regina si è sempre mantenuta assolutamente neutrale, no? Avendo questo ruolo ovviamente di fronte, cioè non è inglese, è il Regno Unito, quindi non può mettersi contro, a favore o contro una parte del suo popolo. Però ci sono queste spinte, è chiaro che sarebbe importante perché la regina è comunque figura amata in Scozia, cioè non c'è un movimento repubblicano, vorrebbero comunque tenere la figura, la sovrana, come avviene già all'interno del Commonwealth, in un ruolo, come dire, altamente rappresentativo ma significativo. Quindi la regina potrebbe giocare un ruolo, dubito che lo farà. Grazie Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra. Pausa, poi la borsa e poi subito dopo ci ritroviamo. C'è stata una nuova truffa che riguarda il Brunello in Montalcino, ne parleremo con l'assessore all'agricoltura della regione toscana. E poi, a proposito di assessori regionali, siamo ancora in gioco con quello alla salute marchigiano per parlare di questo presunto caso di Ebola. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. L'Associazione Nazionale Magistrati contro la riforma della giustizia è inefficace, punitiva e frutto di compromessi, dicono le toghe. Tasi, 48 ore alla scadenza per i comuni che non hanno ancora deliberato, grande confusione tra i cittadini. La qualità dell'istruzione italiana migliora, ma il nostro paese è sempre agli ultimi posti, dice l'Ocse. Arrestati i presunti assassini dell'ex cassiere di Gennaro Mokbel, ucciso in casa a Roma, tra loro un ex terrorista nero. Dopo la prova generale con l'Olanda, stasera tocca la Norvegia per la nazionale di Conte, prima partita ufficiale di qualificazione per l'Europeo. È il momento della borsa. Borse in diretta. Ed è una giornata abbastanza positiva, quantomeno in Italia. FTSE MIB più 0,19%, FTSE OSHARE più 0,17%, Parigi cede lo 0,10%, Francoforte lo 0,08%, Londra in calo dello 0,07%. Eleonora Micheli, Radio Cori, Il Sole 24 Ore, ciao, buongiorno. Buongiorno. Di solito quando le cose vanno così dipende dalle banche, cioè il fatto che noi andiamo meglio e gli altri vanno un po' peggio. Com'è oggi? Oggi più che altro Piazza Affari va meglio delle altre borse europee, perché è puntellata da due blue chips. Telecom Italia, che segna un progresso del 4,28%, sospinta in alto dall'ipotesi che possa cedere Team Brasil nelle mire della cordata guidata da Oi, ma di cui fanno parte anche Vivo e Claro. E poi Finmeccanica, che segna un più 3%, in questo caso dopo che il Corriere della Sera ha scritto che è arrivata un'interessante offerta da parte di una cordata cinese per rilevare sia Ansaldo STS, che segna una delle migliori performance a Piazza Affari, più 5,8%, sia per Ansaldo Breda. E quindi due cessioni sostanzialmente al centro dell'andamento del mercato di oggi possibili. Mediolanum più 2,35%, Azimo più 2,05%, Fiat più 1,85%, GTEC più 1,71%, in fondo al listino ST Microelectronics meno 2,96%. Sì, Esatto, MST quest'oggi va male, ma vanno male anche altri titoli tipo Pirelli -1%, Snam -1%, in questo caso sono dei report negativi da parte di importanti case d'affari. E grazie, grazie Eleonora Micheli di Radio Cor Il Sole 24 Ore. E l'euro, e questo ve lo devo dare naturalmente, quota 1,2889 contro dollaro, la borsa naturalmente ritorna alle 14.30. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. Parliamo di vino importante, il Brunello e il Rosso di Montalcino. Questa mattina sono stati sequestrati 160.000 litri di vino e 2.350 contrassegni di Stato. Si tratta di vino di modesta qualità venduto appunto come Brunello e Rosso di Montalcino. La frode è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Siena, ma da dire che è arrivato grazie ad una segnalazione del consorzio del vino Brunello di Montalcino, che evidentemente ha anche gli anticorpi per reagire a tutto questo. Io saluto Gianni Salvadori, assessore all'agricoltura della Regione Toscana. Salvadori, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie, buongiorno. E noi l'abbiamo voluta con noi perché tra le notizie che sono arrivate in questa mattinata e in questa inchiesta c'è quella secondo la quale sarebbero stati falsate le banche dati sulla vendemmia proprio della regione. Ci spiega un po', al momento naturalmente sulla base di quello che sapete, di cosa si tratta e come è stato possibile? Io sul come è stato possibile lascio alla magistratura di farci sapere come questo è potuto accadere. Sicuramente questo personaggio è, come dire, ne ha combinate diverse, almeno vedendo i reati che gli vengono imputati. Ecco, deve essere stato un personaggio bravo almeno a usare. Sì, al centro di tutto questo, lo dico per gli ascoltatori, c'è un enologo che avrebbe truffato appunto una decina di aziende che fanno parte, insomma, del gruppo del Brunello. Non solo, ma anche la nostra, appunto, ente che è Artea, che è l'ente che fa questa banca e tiene questa banca dati, ha truffato il consorzio. Insomma, mi sembra, da quello che abbiamo potuto leggere, che la cosa sia veramente una cosa gigantesca, insomma, ecco, quindi cosa è successo? È successo che questo ha falsificato le dichiarazioni. Senta assessore, le sembra possibile, visto che leggiamo da quello che scrive e che dice la Guardia di Finanza, delle grandi capacità informatiche di quest'uomo, che è stato appunto capace di falsare la banca dati sulla vendemmia della regione, che il fenomeno sia più esteso e che vada oltre Montalcino e oltre il Brunello e il Rosso? No, io sono convinto di no. Cioè, noi abbiamo un sistema che ora chiaramente metteremo ulteriormente sotto controllo e faremo verifiche successive, ma credo che questo, come dire, possa rappresentare una eccezione, una regola che è abbastanza consolidata. Per di più, noi abbiamo non solo Artea che controlla, ma, come è già accaduto, i consorzi che fanno i loro controlli. Abbiamo due organismi che vanno a verificare le dichiarazioni delle denunce sulle denominazioni, e quindi, come dire, abbiamo più livelli di controllo. Per questo riusciamo a far quello che è accaduto, cioè che alla fine è il consorzio stesso ad autotutelarsi denunciando questo stato di fatto, perché abbiamo più livelli di controlli. Vi costituirete parte civile, no? Indubbio, noi dobbiamo cominciare a tutelare il buon nome e l'immagine della Toscana, che troppe volte viene messa in discussione da questi fatti. Quindi ha fatto bene il Presidente a annunciarlo immediatamente. Dovremo andare avanti, perché questo effettivamente è un danno non solo al Brunello, ma all'intera Toscana. Ci è accaduto un anno e mezzo fa con l'olio, ma anche questo a testimonianza del fatto che appunto in Toscana controlliamo, e quando controlliamo alla fine riusciamo anche a individuare chi truffa, chi froda, e a colpirlo. E io mi auguro veramente che la magistratura celermente faccia questo percorso per capire anche quello che è accaduto, insomma, dando a noi modo di capire gli atti. Senta, vorrei coinvolgere su un altro argomento che è parzialmente però collegato a tutto questo, che è il piano paesaggistico del quale tanto si sta discutendo, no? Della regione Toscana, e nel quale arriva una sorta di indicazione, un consiglio, moral suasion, come la vogliamo chiamare, ai produttori di vino, dice non piantate più vigneti perché ne abbiamo già troppi, ho capito male? Ma senta, intanto questo è il piano adottato, lei sa che tra l'adozione e l'approvazione c'è di mezzo la possibilità di fare osservazioni, e su questi aspetti occorre andare a modificare questo piano, laddove dà queste indicazioni che non corrispondono alle reali esigenze del settore e dell'economia toscana. Il presidente Rossi si è espresso in maniera molto chiara rispetto a queste vicende. Credo si debba dare continuità a quello che il Presidente ha detto negli ultimi giorni, e quindi risolveremo, mi auguro, rapidamente e bene anche questo problema. La Toscana non può fare a meno dei vigneti, del proprio vino, come non può fare a meno del paesaggio e dell'ambiente. Insieme rappresentano il buon vivere e un'identità della Toscana che prese singolarmente nessuno dei tre elementi può rappresentare. Quindi dice arriverete ad un accordo con i produttori, perché i produttori naturalmente hanno protestato quando hanno visto questo piano e hanno detto ma ragazzi, ma come facciamo? Noi dobbiamo espandere la produzione e dall'altra parte ci sono esigenze di paesaggio, ma mi sembra di capire, assessore, anche esigenze geologiche, no? Perché ci sono delle zone, leggevo per esempio. Io credo si debba anche su questo fare le dovuta chiarezza, certo ci sono zone e zone, questo lei pensa è un piano che ha più di 3.000 pagine, quindi un piano complesso che è utile anche per l'agricoltura, però insomma va affinato, migliorato, e io credo di registrare che vi sia la volontà vera da parte dell'intera giunta per affrontare queste problematiche. Giustamente produttore, io ho dato copertura politica per quanto riguarda l'assessorato all'agricoltura, all'azione che viene fatta, perché la reputo oggi un contributo che va a vantaggio del piano in quanto tale e che lo migliora e lo rende ancora più utile di quello che non è oggi per l'economia e per il futuro della nostra regione. Grazie Gianni Salvadori, assessore all'agricoltura della Regione Toscana. Prima di andare a sentire che cosa succede sulle strade, un paio di notizie che in realtà sono delle dichiarazioni battute poco fa dalle agenzie. Il primo è un messaggio, visto che ne abbiamo parlato proprio pochi istanti fa, del primo ministro britannico Cameron e del suo vice Nick Clegg in una dichiarazione congiunta nella quale dicono che domani andranno in Scozia, si rivolgono a chi deve votare per il referendum per la secessione della Scozia. Il nostro messaggio per gli scozzesi è semplice: vogliamo che restiate. L'altra dichiarazione invece riguarda l'Italia e riguarda la vicenda dei due Marò e arriva dal ministro degli esteri Federica Mogherini, che conferma la scelta dell'internazionalizzazione della vicenda dei due Marò e quindi non più una vicenda bilaterale tra Italia e India, ma appunto internazionalizzarla, e questa internazionalizzazione ora è tecnicamente pronta. Dovere di questo governo esplorare l'interlocuzione con il nuovo governo indiano, dice ancora Mogherini, ma le due strade non si escludono. Ed è tutto, perfetto giorno, un ringraziamento a Gianmarco Ferronato in regia, Laura Faggini in assistenza in redazione, tutta la redazione di Radio 24 come sempre, e un grazie a tutti voi per l'ascolto. Effetto giorno, @radio24.it per scriverci se volete, c'è anche la nostra pagina Facebook. Noi ci risentiamo tra un attimo con GR24, effetto giorno torna domani alle 13.00.